nel passato, è scritto il futuro. Radio 24 e il Piccolo Teatro di Milano presentano Pagine per il futuro. 11 incontri con personaggi del mondo della cultura, dell'economia e della politica per leggere e commentare alcuni grandi classici e capire quali valori ci hanno insegnato. Il sabato alle 17 al chiostro di Via Rovello a Milano. Tutti i dettagli su radio24.it e piccoloteatro.org. Questa settimana rileggiamo Ivanhoe di Walter Scott con il giornalista Giulio Anselmi.